Appello. Ademo Elisabetta. Presente. Bozzini Emanuela. Presente. Calderon Clelia e Leo. Presente. De Angelis Marco. Presente. Obbligo di frequenza. Di Maria Piera Ceci. Ci manca solo che puoi rischiare per un 5 in condotta. Se uno vuol fare casino, eccetera, eccetera, lo fa e se ne frega del 5, del 7. Alla fine l'attesa circolare del Ministero della Pubblica Istruzione per le iscrizioni al prossimo anno scolastico è arrivata e c'è pure il voto in condotta che, se inferiore al 5, come sapete, potrebbe comportare la bocciatura per la felicità, come avete sentito, dei ragazzi. Voti anche alla primaria e secondaria di primo grado, le ex elementari e medie, ma non tutti i presidi e gli insegnanti sono d'accordo nell'accantonare il vecchio giudizio. C'è anche chi parla addirittura di disobbedienza civile. Ne riparleremo fra pochissimo, prima le news della settimana. Notizie fra i banchi. Riprende oggi il processo d'appello per il crollo della scuola di San Giuliano di Puglia il 31 ottobre 2002, in cui morirono 27 bambini e un insegnante. E purtroppo anche questa settimana si registrano crolli e problemi in molte scuole. Crolli d'intonaco segnalati a Bolzano, Licata, in provincia di Agrigento, Lampedusa, sempre in Sicilia. Due fughe di gas nel Milanese. E Cittadinanza Attiva ha bandito il terzo premio nazionale delle buone pratiche nella scuola, premio intitolato proprio a Vito Scafidi, il ragazzo morto sotto il crollo della scuola di Rivoli a novembre. Le scuole che vogliono partecipare possono farlo andando sul sito di cittadinanzaattiva.it e scaricando il bando, naturalmente. La scadenza è il 10 febbraio. Denunciato per lesioni personali aggravate e porto illegale d'arma, il 15enne che ha coltellato a scuola a Bologna il compagno di classe mandandolo in ospedale con una prognosi di 30 giorni. Siamo stati lasciati soli, denuncia la preside, che più volte aveva chiesto l'intervento dei servizi sociali per quel ragazzo che presentava varie problematiche. E un accoltellamento anche ieri a Roma, fuori dal liceo scientifico Aristotele. Il ragazzo per fortuna non è grave. È tutto un fermento nelle scuole e nelle famiglie da quando siamo tornati dalle vacanze di Natale. Infatti è arrivato, come tutti gli anni, il momento di pensare sul serio alla scuola dei nostri figli per il prossimo anno. Ora la data è certa. Il termine per le iscrizioni scade il 28 febbraio. Ecco cosa stabilisce la circolare firmata dalla Gelmini proprio questa settimana. Partiamo dai più piccoli. Potranno iscriversi alla materna i bambini che compiono 3 anni entro il 31 dicembre 2009 e, se ci sono abbastanza posti, anche quelli che compiono i 3 anni entro il 30 aprile 2010. Vengono confermate le classi primavera per i bimbi dai 2 ai 3 anni. Alle elementari, invece, possono iscriversi anticipatamente i bambini che compiono i 6 anni entro il 30 aprile 2010. Nelle prime classi sarà introdotto il discusso insegnante unico. Al momento delle iscrizioni, i genitori potranno scegliere fra 24 ore, 27, 30 e 40, cioè il tempo pieno per il quale restano invece confermati i 2 insegnanti. Alla secondaria di primo grado, le ex medie, i genitori possono invece scegliere tra i modelli orari di 30 ore o di tempo prolungato di 36 ore, prolungabile fino a 40. Nel modello a 30 ore, 29 saranno di insegnamento curricolare e una di potenziamento della lingua italiana. Le famiglie, inoltre, da quest'anno possono chiedere l'inglese potenziato, 5 ore anziché 3 di inglese, più 2 di una seconda lingua comunitaria. Per le superiori, il prossimo anno non cambierà nulla. I nuovi ordinamenti entreranno infatti in vigore dal 2010-2011. Passiamo all'argomento voti, che nelle singole discipline sono espressi in decimi sia nella scuola primaria sia nella secondaria di primo grado. Con una votazione inferiore a 6, lo studente non è ammesso all'anno successivo. Esordiscono dunque i voti anche alla primaria e alla secondaria di primo grado, anche se non piace a tutti i presidi questo nuovo modello di valutazione, tanto che hanno annunciato che nella pagella resteranno i giudizi. Fra questi, Renata Puleo, preside della scuola elementare Pietro Maffi di Roma. La domanda capziosa è: che ci sta a fare in un decreto di riforma della scuola questa roba? Tremonti, mi pare che abbia detto in un'intervista, ma forse voi lo ricordate meglio di me, dice: ma i giudizi non si capivano, no? Dice: i genitori bisognava spiegare per 3 ore che cos'era quel buono, quell'ottimo. Allora la domanda è: invece si capisce, che ne so, 7 meno meno, la media che tra 8 e 2 dà un certo voto, anche se il ragazzino che aveva preso 2 poi prende 8, quindi vuol dire che ha studiato, ha capito, no? Allora, di nuovo, c'è qualche cosa sotto a tutta sta storia, o siamo noi che siamo malati di dietrologia? Io penso di no. E che cosa c'è sotto? Allora, guardi, secondo me sotto c'è la malafede, la vis punitiva, molta ignoranza, cioè il desiderio veramente di schiacciare gli insegnanti dicendo dall'alto quali sono i comportamenti che devono adottare. D'accordo. Però mi scusi, ci vuole un criterio uguale per tutti e per tutte le scuole. Altrimenti in una scuola c'è il buono, in un'altra c'è il 7. Quindi da dove potrebbe arrivare, se non un'indicazione generale, comunque dal Ministero, quindi dal Governo? Beh, io credo che le decisioni di un buon governo si formino sulla base della discussione di ciò che avviene nelle scuole e del perché si utilizzano certi parametri piuttosto che non altri. Quindi insomma, lei non è d'accordo sul fatto che sia arrivato per decreto, comunque, insomma, un'indicazione di questo genere, ma sulla sostanza, cioè sul fatto di esprimere in voti altri. E anche sulla sostanza, guardi, poi le parole, soprattutto nella scuola elementare, hanno anche queste un significato un po' diverso dal numero, no? Cioè le parole sono analogiche, lavorano su un continuum. Se io dico che una prestazione è buona, dico qualcosa di diverso dalla secchezza di un numero, il numero 7, il numero 8, il numero 5. Tanto che gli insegnanti delle superiori poi si inventano dal 7 all'8, il 6 meno meno. Quindi non è proprio 7, ma è 7 meno meno, esatto, è un po' più di 7, è 7 e mezzo, eccetera. E poi si trovano nei guai quando fanno le medie per la cosa che le ho detto prima, per cui certo, uno studente che ha preso 2 e poi la volta dopo prende 8, insomma, o il professore completamente imbecille o lo studente ha fatto qualche cosa. Quindi e quindi, preside, che facciamo? Perché tra un po' ci saranno le schede, lei guardi, li mette o no i voti come sulle schede? Scuole abbiamo fatto una delibera con la quale pensiamo di garantirci almeno per quest'anno di mantenere le vecchie schede di valutazione. Ecco, però è arrivata un'indicazione precisa, no? Quindi in realtà bisognerebbe metterli questi voti. Allora come si fa? Tante cose bisognerebbe farle e poi si fa anche disobbedienza civile, non si fanno perché si ritiene che siano sbagliate, perché se dovessimo fare sempre e soltanto tutto quello che ci viene propinato dall'alto, insomma, non credo che questo sarebbe di noi dei buoni cittadini. Ma chissà che ne penseranno i suoi studenti del fatto che anche la disobbedienza civile fa di noi dei buoni cittadini. Comunque il dibattito, come avete sentito, su voto sì, voto no, è apertissimo. Marco Vinicio Masoni si occupa di aspetti psicologici legati alla formazione. Allora, il giudizio era diventato un rituale, purtroppo, mentre era nato con l'intento di diversificare, chiarire quali fossero i piani, eccetera, era talmente complicato fare questo lavoro bene per tanti ragazzi che era divenuto proprio il timbro in pratica, una tradizione rituale. Il voto semplifica la vita in realtà agli insegnanti, ma non è questo il problema. Il problema è che, specialmente in questi ultimi decenni, con i ragazzi nostri così cambiati come sono, occorre che la scuola capisca che il giudizio non può essere soltanto una cosa data ai ragazzi. Occorre che in qualche modo, non mettendo all'indice l'insegnante, eccetera, ma che in qualche modo venga valutato anche lo strumento, la struttura scuola che lavora. Faccio un esempio. Una classe in cui io, in una materia, tutti e cinque, in una materia sola, c'è qualcosa che non va, ma questa cosa non esce. Non viene chiarita, non viene giudicata, non viene valutata. Quindi è un modo un po' per giudicare anche il lavoro degli insegnanti, insomma. Assolutamente, dovrebbe essere così. Ecco, invece, per andare alle famiglie, no? Perché tra un po' si troveranno queste schede, queste pagelle con dei voti che effettivamente sono un po' più chiari, no? Però sì, insomma, l'impatto psicologico sulle famiglie quale può essere? Allora, la cosa peggiore che possono fare è dire mio figlio è da 5 o mio figlio è da 6, cioè pensare che il voto sia un giudizio della persona. Il voto a scuola è l'indicatore che in una certa attività ci sono cose da risolvere ancora, carenze, lavori da fare, eccetera, non qualcosa che riguarda la persona. Il grave danno del giudizio scolastico è questo: la famiglia spesso, e anche la scuola, passa il messaggio, questo è un ragazzo, per esempio, da 5. Che fare di fronte a molte insufficienze, secondo lei, mettendosi nei panni di un genitore? C'è da fare tantissimo, c'è da innanzitutto capire quello che accade al figlio utilizzando il suo punto di vista. Una cosa che il genitore deve smettere di fare è dire, per esempio, alla tua età io facevo già, ero già impegnato, lavoravo già, ero già sposato, eccetera, e capire cosa sia oggi per un ragazzo andare a scuola, una scuola molto diversa da quella che si faceva noi, per ragazzi molto diversi da noi nella nostra infanzia, eccetera. Se riusciamo a capire cosa sente il ragazzo, gli comunichiamo questo, che è fondamentale, cioè sento come stai, se non hai fatto, sei un cretino, eccetera. E dopodiché quasi automaticamente so anche cosa fare, so come parlare con lui, come reagire, che non verbale utilizzare con lui, e ottengo diversi risultati, perché ottengo una pace in famiglia che comunque viene infranta poi dal brutto voto, eccetera, e un clima diverso in cui sento che il ragazzo sente che ha un sostegno, che ha un aiuto. Non devono arrivare punizioni o cose del genere, bisogna innanzitutto capire dov'è il problema. Lei si immagini il ragazzo che prende un 4, siccome non sono cretini, lo sanno che il 4 è un voto, lo sanno già, arriva a casa e la mamma dice: hai preso un 4, ma lo so già. La cosa da fare è capire come stai ora che hai preso un 4, addirittura dire: vedo che sei rimasto male per quel 4, è una buona cosa, mi piace la tua reazione a questo 4. Il che non vuol dire dar sempre retta al ragazzo, dar ragione al ragazzo, andare contro la scuola, ma vuol dire capisco e sento come stai, non hai in me un altro avversario. Nonni, basta con le chiacchiere, diamoci da fare. Yes, let's get to work. Ma prima... But first... Prima si mangia! Tenga una fame che sveng! Chi non si mantiene va in terra? What? Chi non si sostiene, cade per terra. Oh, yes, of course. Nuts, don't worry, capirai tutto, and it's fun. È il titolo dello spettacolo teatrale di Teresa Pascarelli, di cui avete sentito un brano, come avete sentito in italiano e in inglese. Si tratta di una sitcom, un ottimo modo per i ragazzi per esercitarsi un po' con l'inglese divertendosi. È in scena in questi giorni al Teatro Vittoria di Roma ed è stato realizzato in collaborazione con il Ministero della Pubblica Istruzione. Ed è tutto per questa settimana, ci risentiamo sabato prossimo come sempre alle 12:45.